Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi dedichiamo tutta la prima parte alla moda, quella ufficiale per così dire, siamo nel pieno della settimana della moda a Milano, e quella indipendente perché si chiude oggi sempre a Milano su Critical So Fashion, primo evento dedicato in Italia alla moda critica e indipendente. Siete anche voi amanti del cibo e della convivialità? Sapete che i social network ora favoriscono incontri e ritrovi culinari? È la nuova frontiera social del cibo. Ne parleremo nel focus sui trend. Prima però ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. Al via domani a Torino e in contemporanea in 14 città del mondo la Social Media Week, la più grande manifestazione internazionale dedicata ai social network e alla comunicazione digitale. E a Forlì e Cesena torna invece la Settimana del Buon Vivere, la manifestazione sul benessere equo e sostenibile. H&M sbarca in Sud America. Il colosso svedese ha annunciato che nel 2013 aprirà un negozio a Santiago del Cile. Arriva dall'Irlanda intanto e sembra intenzionata ad espandersi in tutto il mondo Primark, la catena hard discount già soprannominata anti Zara e anti H&M. Si gioca sull'ironia l'ultima mossa della guerra Apple-Samsung. Dopo la sentenza che ha dato ragione sui brevetti alla casa di Cupertino, il colosso sudcoreano lancia una nuova pubblicità comparativa tra il Galaxy S3 e il nuovo iPhone 5. It doesn't take a genius, non ci vuole un genio, il messaggio della campagna. Sottinteso, per capire che il nostro smartphone è migliore. Christian Louboutin, intanto, vince contro Yves Saint Laurent sull'utilizzo della suola rossa. La Corte d'Appello di Manhattan ha dato ragione allo stilista francese nella causa intentata contro la storica Maison. Risparmiare è possibile confrontando prodotti e servizi. Fino a 8.000 euro all'anno, calcola Altro Consumo, che fino a domani apre a tutti i consumatori sul proprio sito contenuti e calcolatori per scegliere il fornitore meno caro e più adatto al proprio profilo. La borsa della spesa. È il più antico dei nuovi look, il più nuovo degli antichi look. Simone lo ha creato, un avveniristico look per ogni uomo, donna, bambino, alla portata di tutte le tasche. Si chiama il nudo look. Per gli accidenti sto raccontando, insomma, ho sempre cercato di capire il senso di questo caravanserraglio, ma ora basta, io taglio la corda, io stacco i fili. Partendo dal finale caustico di Prêt-à-Porter, il ritratto graffiante del mondo della moda firmato nel 94 da Robert Altman, parliamo di Milano Moda Donna, la settimana della moda primavera-estate 2013 che chiuderà i battenti tra due giorni. Che cosa si è visto in passerella? Che cosa è cambiato? Che significato hanno ancora le sfilate nel sistema moda nell'era della velocità, della condivisione e della partecipazione? Ne abbiamo parlato con un esperto, un insider del settore, Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire. Ma innanzitutto volevo fare una premessa. Si è visto, come direi da molto tempo non si vedeva, una donna molto coperta, molto composta, molto elegante e lontana anni luce da un certo tipo di femminilità molto esibita, molto sexy, anche eccessivamente, no, scoperta per l'estate. Direi che c'è una sorta di minimalismo colorato, non so come definirlo, cioè abiti molto semplici, ma soprattutto con uno sguardo verso il futuro molto positivo, e questo sicuramente ha a che fare anche con i nuovi mercati. A proposito di crisi, si parla mai in questi contesti, magari tra gli addetti ai lavori, di prezzo, di sostenibilità del prodotto, di giusto rapporto qualità-prezzo, eccetera? Sono discorsi che si iniziano a fare, si fanno? Forse si fanno fin troppo. Tutti i capi che abbiamo visto sono capi estremamente preziosi, sicuramente saranno costosissimi, ma nello stesso tempo sono anche i capi che nella loro classicità, nel loro taglio, nella loro confezione, nella loro qualità anche di tessuti, non dimentichiamo il grande indotto che viene dall'industria proprio solo del tessile in Italia, ambiscono a diventare dei grandi classici. Non c'è più l'abito scherzo, l'abito gioco che dura soltanto tre mesi, quello possiamo andare a comprare in una delle tante catene di fast fashion, come oggi si chiama, mentre invece questi abiti sono un po' come dei beni rifugio, no? È come investire in un gioiello, è come investire in un'opera d'arte, quindi sicuramente costano molto, ma durano anche molto. Quello che secondo me la moda italiana, e quindi riferiamoci sostanzialmente a Milano in questi casi, deve ancora fare, non è tanto, come dire, l'aspetto di sharing, come diremmo oggi, in senso tecnologico, perché quello veramente è ormai un dato assodato. Addirittura ci sono alcune griff che permettono di scegliere il capo per la prossima stagione mentre stanno sfilando le modelle, si vedono in streaming. Il passo successivo che bisognerà fare, e secondo me sempre più importante, sarà proprio coinvolgere un pochino di più le persone che vivono in questa città e che ancora adesso vedo leggermente così disorientate, per non dire disturbate, da questa esercito di persone che arrivano da tutto il mondo, vestite tutte di nero, come se fossero un esercito di scarafaggi che invadono dappertutto la città. Non è vero che la moda, anche quella griffata, sia antipatica o anche impossibile. La moda è anche sogno ed è giusto che ci sia questo sogno collettivo da sognare sempre in più persone. In questi giorni, volutamente in contemporanea con la settimana della moda, si svolge a Milano So Critical So Fashion, il primo evento in Italia dedicato alla moda critica, etica e indipendente. La responsabile Anna Nenna. Siamo partiti con So Critical So Fashion nel 2010 un po' in sordina e abbiamo deciso poi l'anno scorso di proporre questo evento durante la settimana della moda, proprio perché volevamo far sì che fosse chiaro che questo tipo di moda etica, sostenibile, è anche una moda molto bella, con un design e uno stile assolutamente avanzati e assolutamente comparabili con quella che è la moda tradizionale. Dalle borse di Kevlov, realizzate con vele recuperate, agli abiti artigianali in stile anni 60 di biomoda, fino ai gioielli fatti con le camere d'aria di Lorena Giuffrida, ecco le voci di chi in questa moda ci ha creduto. Noi nasciamo come veleria. Mio papà è stato uno dei primi velari in Italia, semplicemente abituate a riutilizzare i vari scarti della vela nuova per creare sacchetti, per sacche marinaio. Un giorno che dovevo appunto recarmi ad un evento molto importante, non avevo tempo di comprarmi, di andare ad acquistare nessun tipo di accessorio. C'era del laminato molto bello, di una vela appena tagliata, l'ho arricchito con delle perline e da lì sono partita. Un progetto che viene realizzato sempre all'interno della veleria, per cui da una parte c'è mia sorella che taglia le vele, assembla, modifica, e dall'altra parte in questo loft ci sono io che ritiro tutto quello che lei scarta, tra virgolette, o che lei in qualche modo taglia, ritiro le vele vecchie in disuso e le trasformo in altro, mantenendo però la tradizione degli artigiani velai. Ho scelto di fare un salto nel passato perché dal mio punto di vista quello che serve oggi è ritornare ad avere qualità nel prodotto che noi indossiamo, e ho scelto di farlo acquistando tessuti biologici, perché ovviamente il tessuto biologico mi dà la garanzia di non essere trattato, di non lasciare residui sulla pelle, in più perché segue una filiera di impatto ambientale zero e comunque anche di rispetto del lavoro delle persone che sono all'interno di questo settore. Un ciclista mi mette da parte sempre tutte le camere d'aria per creare appunto questi gioielli. Una caratteristica anche della camera d'aria è la leggerezza e il volume che riesce a dare. La follia della donna, quel bisogno di scarpe che non vuole sentire ragioni. E c'è anche chi, in previsione della settimana della moda, ha organizzato il Non Fashion Party, in contrapposizione ai party stile Milano da bere anni 80. Baristi d'eccezione, Elio e le storie tese. Sentiamo Faso al microfono della nostra Marta Cagnola. Noi non siamo fashion, infatti, per esempio, non so, in Corso Como c'è un cartello, sai come quello con i cani, col divieto d'ingresso, con la nostra faccia che ho scritto no, voi non potete entrare, noi non possiamo accedere a Corso Como, per esempio, perché è troppo fashion per noi. I tratti distintivi del non fashion sono i seguenti: non mettersi gli occhiali da sole quando il sole è già tramontato. Se non li metti non sei fashion, se li metti sei fashion, sei anche un cretino, ma sei fashion. Non abbiamo i pantaloni cadenti dai quali si possono intravedere le mutande, quindi non siamo fashion, siamo completamente fuori, capito? Siamo dei pazzi. Essere e avere. Di nuovo in studio per la seconda parte di Essere Avere. Per il focus sui trend di questa settimana parliamo di social food, cioè di cibo e socialità on e offline. E non a caso abbiamo iniziato con Tre cose di Malika Ayane, canzone tratta dal nuovo album dell'artista che nell'immagine di copertina, andatela a vedere sulla nostra nuova pagina Facebook se non ce l'avete presente, condensa molte delle cose che diremo oggi. Sono le cose che devo ricordarmi di fare. Accanto a me, come sempre, Patrizia Martello di Memetic Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Avviso di party, indovina chi viene a cena, sono i titoli di solo due fra i molti articoli che parlano del fenomeno del momento, complice la crisi, la rinnovata attenzione per il cibo da cui passa oggi, lo sappiamo, tutto quanto fa tendenza, e complice anche la condivisione mania dettata dai social network, è boom per il social dining, siti e applicazioni per organizzare ritrovi culinari a tema in un locale, a casa propria o altrui, cucinando da soli oppure in compagnia tra conoscenti o perfetti sconosciuti. È una nuova convivialità alla quale si ispirano anche ristoranti, chef e dispensatori di cibo in genere. Patrizia. Il consumo di cibo oggi è fatto privato e evento pubblico, individuale e sociale, e i social network in questo senso favoriscono molto questa direzione evolutiva. Social food è l'idea di una cucina diffusa che incontra l'abitudine al consumo continuo di cibo ovunque, unita all'esigenza anch'essa diffusa di trovare nuovi amici che condividano gusti, stili di vita, ma soprattutto pranzi e cene. Dunque, cibo e social network, la rete usata per ritrovi culinari di vario genere. Vediamo qualche esempio. Let's Lunch per il pranzo di lavoro è un social network da utilizzare per espandere il proprio network di amici, evidentemente, ma mangiando. Dunque, per conoscere persone per affinità di gusto nella pausa pranzo. È nato per, diciamo così, dare nuovi significati alla pausa pranzo nel quartiere in cui si lavora. Il network abbina i profili degli iscritti che presentano background e interessi simili, e interessante e quasi paradossale, è vietato connettersi durante la pausa pranzo. Let's Lunch consiglia infatti vivamente di non portare con sé smartphone, computer, tablet, qualsiasi device per mettersi in rete mentre si mangia, quindi celebra la sacralità del pranzo. Altro sito di social dining con il sistema dei coupon, Grab With Us, forse il più noto, per pasti e nuovi incontri. Sottotitolo: mangia con persone splendide, si può anche prenotare un posto, per esempio a un tavolo con una famiglia che sta facendo il brunch e unirsi a loro, eccetera. Dunque la nuova frontiera della convivialità intorno al cibo passa per social network come questi o altri, o siti come l'italiano In Your Food, che stanno di fatto cambiando lo stile di vita di molti appassionati del cibo. Su In Your Food niente ristoranti, perché è la community online dei buongustai casalinghi, convinti che a casa si mangi meglio che fuori. Funziona così: si decide il menù, l'orario, il posto in cui ritrovarsi, ognuno prepara un piatto e a fine pasto si vota il migliore. Passiamo al mondo delle app. Già molto nota Plongy, dall'inglese tuffarsi, per organizzare eventi sempre e solo culinari, evidentemente in case private, ma non solo, anche in location come gallerie d'arte, ristoranti, vinerie, eccetera. E ce n'è una per iPhone, si chiama Domino's, gratuita, per facilitare il consumo istantaneo e geolocalizzato di pizza calda in qualsiasi luogo uno si trovi. È nata negli USA, è stata applicata dai giapponesi ai servizi di delivery durante la stagione della fioritura dei ciliegi, e per il tradizionale e amatissimo picnic nel parco cittadino quest'anno si è potuta gustare la pizza appena sfornata, recapitata, pensate dove, ai piedi del ciliegio prescelto. scelto, quindi in mezzo a centinaia di persone a colpo sicuro arrivava la pizza ordinata. Social, stiamo parlando di social food, non è però solo ecosistema digitale, ma è anche socialità, come dicevi, offline, perché il social food è anche cibo condiviso in piazza, per strada, quindi cibo sociale. La cucina di strada, la cucina pop, è quella che in questo momento combina socialità e eccellenza gastronomica accessibile. Quindi dai lecca lecca di polipo al kebab d'anatra con ketchup di carote, ai trapizzini, quelli inventati da Mauro Uliassi, che si aggira per i vari festival italiani con il suo caravan, l'ha battezzato Street Good e offre questi triangoli di impasto di pizza da teglia conditi con vari topping. Continua a crescere la tendenza del food on the go, è il cibo da passeggio, quello consumato mentre ci si sposta, da mangiare soprattutto con le mani. E in espansione il food truck, quello che ha riportato in auge appunto Ape Car, furgoncini, chioschi semipermanenti, insomma questi nuovi dispenser urbani di cibi per lo più low cost, ma in versione sempre più gourmet e soprattutto interessanti per l'offerta di specialità locali, di formule fusion e proposte d'autore come controproposta al fast food convenzionale. Nel cinema la convivialità ha un ruolo importante, sono molti i film che la esaltano e la valorizzano. Su tutti abbiamo scelto quelli di Ferzan Özpetek, in cui il cibo, la socialità e la complicità che si creano intorno a una tavola imbandita diventano parte della storia. Rimani a pranzo con noi? Dai Antonio, vieni, vieni a tagliare le cipolle. Già Luisella la conosci. Senti, le sai fare a pezzetti piccoli piccoli? È pronto? Andiamo a tavola. A tavola, venite. Vediamo dopo. Aspetta papà, vi devo dire una cosa. Ho detto dopo. Patrizia, quanto la crisi ha modificato le dinamiche legate alla convivialità, al cibo e al consumo di cibo? Ma la premessa sulla crisi è immancabile sempre, dunque anche in questo caso. Diciamo che la crisi ha contribuito a cambiare il consumo di cibo in casa e fuori casa. Sono interessanti le contaminazioni, nel senso che si importa in casa l'alta cucina, diciamo così, con i cuochi in affitto, un fenomeno di cui abbiamo già parlato e che oggi non riprendiamo, e si cerca fuori casa la semplicità e la frugalità casalinghe, dunque anche ristoranti. Un esempio milanese di recente apertura è Refettorio, materie prime eccellenti anche se semplici, quindi una cucina povera tra virgolette, con tavoloni su cui si mangia anche con sconosciuti. E altro caso di socialità domestica è anche l'ultima idea di tre chef del famoso ristorante El Bulli di Ferran Adrià, altrettanto famoso e controverso chef, l'ideatore, per chi non lo conoscesse, della cucina molecolare. Questi tre chef hanno aperto, con la benedizione del grande maestro, prima dell'estate, Compartir, in una cittadina spagnola sulla costa, Cadaqués. Compartir significa in spagnolo condividere, il menù è fatto di una quarantina di piatti progettati proprio per la degustazione collettiva, dunque il concept su cui è nato il ristorante è proprio questo: niente presentazione dei piatti, cibi semplicissimi, facili da capire, creatività estetica contenuta e tuttavia nessun vincolo alla cucina tradizionale spagnola. C'è un unico tavolone su cui gomito a gomito con sconosciuti o con amici, evidentemente si mangiano questi piatti d'autore, che però sono piatti pieni, niente nuvole, si è letto in qualche recensione, calati in termini esperienziali proprio in questa nuova tonalità intima e di stretta prossimità con altri. L'attitudine, dicevamo, è al consumo continuo di cibo anche in termini culturali e di entertainment e in ogni luogo. Si fa colazione per esempio non solo nei ristoranti che stanno dilatando sempre più l'offerta, aprendo le loro porte alla colazione, oppure anche al cinema. Per esempio a Stoccolma nel weekend, al cinema Biorio, si può fare colazione al prezzo di circa 14 euro e poi guardarsi due film a scelta. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo a San Francisco sul social food? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Beh, l'ultima trovata in fatto di food è Dish Crawl, un'iniziativa nata appunto in California ma che ben presto si è diffusa in altre città degli Stati Uniti. Se nello slang inglese il pub crawl è il classico giro di bar, Dish Crawl è il giro dei migliori ristoranti del quartiere fatto nella stessa sera ma non lasciato al caso, anzi organizzato nei dettagli come un vero e proprio evento. Per parteciparvi infatti si acquista un biglietto a un costo molto contenuto che varia dai 10 ai $30 e ci si ritrova in un luogo dato insieme agli altri partecipanti e di lì si parte per un mini tour, una sorta di food adventure che toccherà 4 ristoranti per gustarne in ognuno le specialità ma anche per ascoltare il dietro le quinte dalla viva voce degli chef o dei proprietari dei locali. L'intuizione dell'ideatrice Tracy Lee è stata quella di intercettare le esigenze di questa sempre più nutrita popolazione di appassionati alla continua ricerca di esperienze culinarie inedite e socializzanti. La formula è interessante anche perché permette da una parte alle persone di testare in modalità intrattenimento i ristoranti, soddisfacendone così il bisogno sempre più diffuso di provare prima di comprare e allo stesso tempo funge da efficace meccanismo promozionale per gli esercizi commerciali. Grazie Alessia, sicuramente un'idea valida magari da importare anche in Italia. Patrizia, siamo in conclusione. Social food dunque non solo come fenomeno digitale e legato ai social network ma anche face to face. Certo, soprattutto face to face e quindi social come aggettivo non è più da associare automaticamente a digitale e a questo ecosistema. In altre parole non è solo internet ma ormai rimanda a nuovi modelli di relazione sociale e il cibo più di altri consumi è al centro di questo enorme cambiamento. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate sul nostro sito radio24.it e potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate. Veniteci a trovare sulla nostra nuova pagina Facebook. Aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.